24, i gialli della storia. Crede che oggi in America Latina ci siano paesi pronti ad affrontare una rivoluzione come quella cubana di Castro? Sì, ci sono. Ci sono delle lotte. Non se ne parla, ma ci sono. Si lotta in Venezuela e in Guatemala. Forse ci sono altri paesi dove il popolo si sta armando. Lei ha parlato di Venezuela e Guatemala. Cuba sta sostenendo la rivoluzione in questi paesi? Solo moralmente. Cuba crede che queste lotte armate siano giuste, ma fino a un certo punto. E noi oggi a Mix 24 raccontiamo gli ultimi giorni di vita di Ernesto Che Guevara. La sua fuga disperata nelle montagne della Bolivia, ai confini della giungla, inseguito dalla CIA e dall'esercito boliviano. E dietro il racconto di una caccia all'uomo c'è anche la storia di un'icona del XX secolo, del suo spregiudicato tentativo di portare la rivoluzione cubana nel Sud America. Tutto inizia il 3 novembre del 67. Un Che Guevara irriconoscibile atterra sotto falso nome all'aeroporto di La Paz, in Bolivia. I passeggeri scendono dall'aereo. Tra loro un rappresentante di commercio uruguaiano. Sul passaporto c'è scritto Alfredo Mena Gonzalez, ma è un nome falso. Dietro quest'uomo calvo, miope e di mezza età, nessuno riconoscerebbe mai Ernesto Guevara della Serna. Figlio di una famiglia borghese benestante, Guevara nasce a Rosario, in Argentina, il 14 maggio 1928. Da subito mostra i sintomi del virus della rivoluzione, un male incurabile, nonostante la sua laurea in medicina. Il mondo lo conoscerà come il Che, un soprannome che gli viene dato dai compagni di lotta cubani. Appassionato di fotografia, di viaggi, di letteratura, nel 1958 è già all'opera nel cuore della rivoluzione cubana, al fianco di Fidel Castro e dell'esercito dei Barbudos. Il loro momento di gloria è la presa dell'Havana il 2 gennaio 1959, ma è solo l'inizio. Per sostenere le cause della rivoluzione marxista, Che il guerrigliero diventa un viaggiatore instancabile. Nel 65 prende parte al tentativo di colpo di Stato in Congo, ma l'operazione è un fallimento. Tornato a L'Avana, cerca un'arena per la sua seconda crociata, l'America Latina. Nel novembre 1966, il Che lascia Cuba in gran segreto. A parte Fidel Castro e pochi agenti sovietici, nessuno conosce la sua vera destinazione, la Bolivia. Che Guevara ha in mente un'operazione di ampio respiro che sostenga e incoraggi i ribelli in America Latina. È deciso a piantare il seme della rivoluzione marxista in quello che viene chiamato il cortile dello Zio Sam, un'area geografica vissuta come una colonia di Washington. La Bolivia sembra essere il terreno ottimale. Un successo qui, nel cuore del Sud America, creerebbe seri problemi agli Stati Uniti. Il paese, infatti, potrebbe diventare una base strategica per ramificarsi in tutto il continente sudamericano, di cui la Bolivia è uno dei paesi più poveri. E la povertà, da sempre, è la condizione ideale per la rivoluzione. Il paese è governato da un ex militare, il presidente René Barrientos, salito al potere nel 1954 con l'appoggio degli Stati Uniti e in perfetto stile latinoamericano, con un colpo di Stato. Il regime viene poi legittimato con delle cosiddette elezioni democratiche. All'alba del 5 novembre 1966, il Che lascia La Paz per dirigersi con la Jeep a Nancahuazú, un'area isolata piena di foreste nel sud-est del paese, dove ha intenzione di stabilire il campo base. Arriva nella notte tra il 6 e il 7 novembre. Per il momento Ernesto Guevara si fa chiamare solo con il suo nome in codice, Ramon. Ernesto Che Guevara, col falso nome di Ramon, inizia non senza difficoltà la sua guerriglia in Bolivia. Ma crede di avere una carta vincente, Fidel Castro. Infatti gli ha garantito l'appoggio del Partito Comunista Boliviano. Il partito dovrà organizzare le provviste di cibo, di armi, arruolare nuovi combattenti, selezionandoli nelle file dei giovani attivisti comunisti. Ma i comunisti boliviani non aiuteranno mai Che Guevara e il suo gruppo. Il partito ha avuto ordini precisi da Mosca. È tempo di abbandonare la guerriglia e di rinunciare alla rivolta armata in America Latina. nel nuovo assetto della guerra fredda che divide il mondo, Unione Sovietica e Stati Uniti stanno attraversando un periodo di coesistenza relativamente pacifica. Ma non è tutto. Il Cremlino infatti da anni nutre sospetti e diffidenza verso il Che, un rivoluzionario intransigente che è diventato molto popolare, troppo popolare, e poi ha un carattere troppo schietto e diretto. Il 24 febbraio del 65, in un discorso ad Algeri, il Che accusa l'Unione Sovietica di essere imperialista quanto gli Stati Uniti. E Mosca non gliela perdona. Sentiamo lo storico Umberto Vasquez Viana e poi uno dei suoi guerriglieri. Era una dichiarazione di guerra. I russi accusavano il Che non solo di maoismo, ma soprattutto di trotskismo. E questo all'epoca, questo era considerato uno dei peccati peggiori. Venivi subito emarginato, eri finito. Fidel e gli altri lo incontrarono al suo ritorno da Algeri. Rimasero a parlare per più di 3 giorni consecutivi. Al termine dell'incontro rilasciarono delle dichiarazioni. Il Che aveva deciso di lasciare tutti i suoi incarichi ufficiali. E in questo modo Cuba non avrebbe avuto più alcuna responsabilità diretta. Oggi però sappiamo che in realtà era stato costretto a mollare. Di quell'incontro non resta nessun documento ufficiale. Non si sa che cosa si siano detti Fidel Castro e Che Guevara, né se Castro abbia chiesto a Guevara di pagare il prezzo della sua intransigenza e del suo idealismo. Un fatto è certo, discutendo di vita e di politica, l'amicizia tra i due sta andando in pezzi. E con la chiacchierata con Castro, il Che ha firmato la sua prima condanna a morte. È un suicidio politico. Il Che scrive una lettera di addio, annuncia di voler rinunciare ai suoi incarichi, dice di voler lasciare Cuba per esportare la rivoluzione. Il 13 ottobre 1965 Castro pubblica la lettera. Ernesto Che Guevara verrà ucciso esattamente 2 anni dopo. In Bolivia il Che pensava di poter essere nuovamente un guerrigliero. In realtà ben presto diventa un desperado. Lo hanno abbandonato sia i sovietici che i cubani e non ha nemmeno l'appoggio dei comunisti boliviani. La mattina del 1 gennaio 1967 ci siamo riuniti. Il Che ci disse che non avremmo avuto nessun sostegno. Nessuno si sarebbe unito alla nostra lotta. Soprattutto ci disse che eravamo bloccati lì, perché i nostri documenti erano falsi e i nostri visti erano scaduti. Credevamo che stesse esagerando, ma in realtà lui vedeva la situazione molto più chiaramente di noi. 1 febbraio 1967. Ernesto Che Guevara sceglie 25 uomini per una missione di ricognizione nella regione del Rio Grande. Vogliono arruolare nuove reclute. Trovano solo un gruppo di contadini isolati e diffidenti. Il 19 marzo il Che e i suoi uomini, stremati, fanno ritorno al campo base a Nankawazu. Trovano una dozzina di nuove reclute, tra cui il francese Régis Debray, un intellettuale pro-Castro. C'è anche un argentino, Ciro Bustos, un pittore e comunista militante. Il Che ha un altro problema. Ha scoperto che 2 boliviani hanno disertato. È arrivato il tempo dei tradimenti. Mi raccontarono tutto. Mi dissero che erano corsi dall'esercito per raccontare tutto sulla guerriglia. Erano convinti che con la ricompensa che gli sarebbe stata pagata avrebbero potuto pagarsi le spese per tornare a casa. L'esercito li fece tornare a casa con un aereo, così durante il viaggio avrebbero potuto indicargli dov'era il campo base. L'informazione raggiunge il palazzo presidenziale. Barrientos avverte immediatamente le truppe. Immediatamente l'esercito parte per combattere i guerriglieri, ma al campo base non trovano nessuno. 2 giorni dopo l'esercito fa un secondo tentativo, come raccontano i guerriglieri José Castillo Chavez e Eusebio Tapia. Era il 23 marzo, le 10 del mattino. I soldati iniziarono ad arrampicarsi sulle colline verso di noi. Potevamo vederli mentre si arrampicavano lentamente, erano in molti. In quel momento qualcuno urlò: «La guerra è iniziata! L'esercito sta avanzando, dobbiamo essere pronti!» Eravamo solo in 8, eppure riuscimmo ad avere la meglio. Facemmo molti prigionieri, tra cui molti ufficiali, e ci impadronimmo di tutte le loro armi. Il Che pensava che fossimo come i contadini ignoranti che aveva conosciuto a Cuba. Il suo tono era: quando dico una cosa, è un ordine. Quando uno di noi gli dava un suggerimento, lui diceva: ma che vuoi tu? Sta zitto. Aveva un atteggiamento completamente sbagliato. La durezza del Che non impedisce ai guerriglieri di assaporare la vittoria, ma è un trionfo di breve durata. Pochi giorni dopo, un nuovo tradimento. Che Guevara ha affidato una missione al francese Régis Debray, cercare l'appoggio dell'Europa. Nella sua missione, Debray viene accompagnato da Ciro Bustos. Il 20 aprile, Régis Debray e Ciro Bustos cadono in trappola e vengono catturati dall'esercito. A questo punto, le autorità boliviane hanno finalmente scoperto la verità. Sanno che dietro il nome in codice Ramon si cela Ernesto Che Guevara. Qualcuno ha parlato. Che Guevara non è ancora l'icona del guerrigliero in posa da Cristo deposto, ma il suo Giuda è già noto. Si tratta di Ciro Bustos. Él nos dibujó a nosotros. Aveva fatto una mappa dettagliata ed è con quei disegni in mano che l'esercito boliviano ci stava cercando. Sapevano tutto. Che aspetto avevamo? Le nostre caratteristiche individuali. Ciro Bustos, l'uomo accusato di aver tradito Che Guevara, dovrà vivere per sempre con questo fardello. Ma dalle accuse di tradimento Ciro Bustos si è sempre difeso. Ascoltiamolo. Mi sento obbligato a rivelare cosa è accaduto realmente. Anch'io, altrimenti, finirei per essere soltanto uno di quelli che raccontano menzogne. È questa la mia motivazione principale. Per quanto mi riguarda, non ne traggo nessun vantaggio personale. La mia vita ormai è alla fine. Sono decenni che convivo con questa bugia. La verità, invece, credo che potrebbe almeno giovare ad altri. Fu un'euforia terribile. Tra i soldati si scatenò molta euforia. Per loro era come aver vinto la battaglia. Io ero un tipo totalmente derrotato. Loro pensavano che io avessi avuto un crollo, che gli avessi fornito tutti i dettagli. Credevano che io avessi identificato le persone più importanti. In realtà sono molto fiero di quello che feci. Quei disegni sono una perfetta operazione di controspionaggio. Proposito mio, fondamentale. Il mio scopo principale era difendere l'organizzazione in Argentina. Questo era il mio compito e il mio dovere. Non avevo nessun dovere nei confronti della guerriglia, perché poteva difendersi da sola. Tra l'altro non sapevo nemmeno dove fossero in quel momento. Non le chiesero niente riguardo al Che? Mi chiesero se lo avessi visto, ma sapevano che era in Bolivia, sia a causa delle confessioni dei due disertori, sia perché glielo avevano detto altri prigionieri. Me ne sono accorto durante gli interrogatori. Ma un altro episodio suscita dubbi e interrogativi. Il 15 aprile del 67, 5 giorni prima della cattura di Debray e Bustos, i cubani organizzano una conferenza stampa e presentano un articolo scritto dal Che che incita l'America Latina alla rivolta. L'articolo è accompagnato da una serie di scatti che lo ritraggono senza barba. Grazie a queste immagini, la CIA e l'intelligence boliviana hanno a disposizione delle fotografie recenti del comandante. Inoltre, per la prima volta la Bolivia viene identificata come possibile bersaglio di una rivolta armata. Ma le autorità boliviane e americane hanno bisogno di una conferma, hanno bisogno di sapere chi c'è dietro questa rivolta. Sentiamo lo storico Vasquez Viana e poi Walt Rostow, consigliere americano per la sicurezza nazionale. Con la pubblicazione di queste informazioni da parte dei cubani, Debray non aveva più bisogno di parlare. La sua presenza in Bolivia era sufficiente a tradire il Che. Del resto, lo stesso Che in aprile scrisse nel suo diario: dice in aprile, revisiamo il diario del Che, Con la pubblicazione del mio articolo a La Habana, non ci sono più dubbi circa la mia presenza qui. Ne fummo certi dopo le dichiarazioni di Debré, che avevamo fermato a Muyupampa. All'inizio dell'interrogatorio ci disse che era venuto nel nostro paese perché voleva fare un'intervista a Ernesto Guevara e che ci era riuscito. Per noi questa fu la conferma che il Che era a capo di quel gruppo di guerriglieri. Washington, 11 maggio 1967. Sulla scrivania del presidente Johnson alla Casa Bianca arriva una nota del consigliere per la sicurezza nazionale, Walt Rostow. Abbiamo una segnalazione ufficiale. Il CE è vivo ed è operativo in America Latina. La morsa intorno al CE si sta stringendo. Il presidente Barrientos dichiara lo stato d'assedio. Ormai nella partita sono coinvolte sia Mosca che Washington. Il 26 giugno il primo ministro sovietico Alexei Kosygin è in visita a Cuba. Il Cremlino cerca di convincere Castro a fermare la guerriglia. Castro però non è d'accordo. Secondo lui i movimenti di liberazione in America Latina vanno appoggiati sempre e comunque, ad ogni costo. Anche gli Stati Uniti vorrebbero impedire ai Barbudos di esportare la loro rivoluzione in America Latina. Verso la fine dell'aprile 1967, gli Stati Uniti inviano dei consulenti militari che hanno già combattuto in Corea e in Vietnam a supervisionare l'addestramento di circa 700 ranger boliviani. Si tratta di esperti in guerriglia. Per il Che e i suoi uomini, i mesi che seguono sono interminabili. Spesso non mangiavamo per giorni. Anzi, per settimane, perché avevamo finito le provviste. Non eravamo preparati psicologicamente per superare delle condizioni così dure. Se fossimo andati dai contadini a chiedere cibo, ci avrebbero tradito. Durante il mese di luglio, il Che continua il suo cammino. L'asma di cui soffre sin da bambino gli provoca forti attacchi, ma Guevara non ha più medicine per curarla. I suoi attacchi d'asma duravano giorno e notte. Quando ci fermavamo, si appoggiava a un tronco d'albero e premeva il torace, comprimendosi i polmoni per cercare di respirare. A volte perdeva conoscenza. Lo abbiamo trasportato in barella per più di 10 chilometri, mentre l'esercito ci inseguiva. Noi provavamo a insistere perché si riposasse, ma lui si rifiutava categoricamente. Diceva che doveva guidare la guerriglia. Il Che decide di andare verso nord per evitare l'accerchiamento dell'esercito ed evitare scontri armati. L'esercito intanto aumenta la pressione. Le schermaglie finiscono per decimare le fila della guerriglia. Uno dopo l'altro vengono uccisi a dozzine. Agli inizi di settembre ne sono rimasti solo 22. Sono esausti, sfiduciati, affamati, ammalati. Non hanno più tempo per le precauzioni. Vagano nei villaggi alla ricerca di cibo, vestiti, medicinali. Che Guevara commette il suo ultimo errore. Decide di andare verso la Quebrada del Churro. Ed è in quest'area desolata che termina l'avventura militare di Ernesto Che Guevara. L'8 ottobre il manipolo di combattenti combatte la sua ultima battaglia. Sono le ultime ore di vita del Che. Sentiamo il racconto del consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Rostow, e di uno dei guerriglieri del Che. Erano circa le 11 della mattina, tutto era pronto secondo i piani. A quel punto ho dato l'ordine di iniziare l'operazione. I primi colpi furono indirizzati a noi mentre scendevamo nel burrone. Perdemmo due soldati. Così è iniziata la battaglia ed è durata fino al calar del sole. Il comandante Guevara era distante tanto così. Fu individuato quando finirono le sue munizioni. Prese la sua pistola, ma era scarica anche quella. Era anche ferito ad una gamba. Un soldato mirò al Che e urlò: «Ti ucciderò!» Willy il cubano fece un passo avanti e disse: «No, lui è il comandante, non uccidetelo!» Con una gamba ferita e in preda ad un attacco d'asma, è qui che trascorre le ultime ore prima di morire. All'alba del 6 ottobre un agente della CIA mandato sul posto umilia il Che scattandogli una fotografia accanto ai soldati che lo tengono prigioniero. È l'ultima immagine del Che vivo. In mattinata l'esercito manda un messaggio radio alla Paz. Tre parole, una domanda. Vivo o morto? Alle 11 in punto il palazzo presidenziale risponde. Morto. Ma chi è stato ad ucciderlo? Sentiamo le parole di Eduardo Torrico, ex ufficiale dell'esercito boliviano. Non è stato Barrientos a dare l'ordine. È stata la CIA. Ho parlato con dei soldati che erano sul posto e siccome ero un loro collega, perché ero un ex militare, mi hanno confermato tutto. Erano entrati, gli avevano dato un'occhiata e se n'erano andati con il loro elicottero. Un rapporto della CIA indirizzato al presidente Johnson sembra dire il contrario. Dopo un breve interrogatorio per stabilire la sua identità, il generale Ovando, comandante delle forze boliviane, avrebbe ordinato l'esecuzione. E poi un commento. Considero questa eliminazione una stupidaggine. Firmato Walt Rostow, consigliere per la sicurezza nazionale. Il 9 ottobre 1967, alle 11 di mattina, il sergente Mario Terán si offre volontario per eseguire l'ordine. Entra nella scuola, da solo, con un ordine ben preciso. Il proiettile non deve colpire il viso. La versione ufficiale doveva essere tutt'altra. Morto in combattimento. Il 10 ottobre, 24 ore dopo la sua morte, i soldati mettono in scena un altro spettacolo a beneficio della folla. Non basta la vittoria, ci vuole anche il trofeo. Il corpo del Che viene esposto per tutto il giorno nella lavanderia dell'ospedale. L'esercito boliviano autorizza i cittadini a vedere il corpo per 24 ore, mentre la notizia della sua morte fa il giro del mondo. Nelle settimane successive, l'esercito nasconde la verità sulle circostanze riguardanti la morte di Che Guevara. La versione ufficiale rimane sempre la stessa, caduto in battaglia. Sfortunatamente per le autorità, c'è chi contraddice questa versione. Presi le chiavi e entrai nella scuola. C'era un odore terribile e sangue dappertutto. C'erano pezzi di carne, capelli e vestiti insanguinati. Avevo la nausea, ma mi sono detto: il mondo deve sapere la verità. Deve sapere che è stato assassinato in modo così orribile. La verità emerge il 30 dicembre 1967. Il mondo è sconvolto e indignato. Nel frattempo, l'esercito ha fatto opportunamente sparire il corpo del Che. Lo seppelliscono di notte, vicino alla pista di atterraggio di Valle Grande, insieme a sei dei suoi compagni. Tutto si svolge in totale segretezza. La sua tomba non deve diventare un luogo di culto, e i boliviani manterranno il segreto per quasi 30 anni. Il 28 giugno 1997, i resti del Che vengono riesumati e fanno ritorno a Cuba. Oggi Ernesto Che Guevara ha due mausolei, uno in Bolivia, incompleto a causa della mancanza di fondi, e uno a L'Avana. Qui, per celebrare un uomo che detestava il fasto e le cerimonie, Fidel Castro gli organizza un funerale, degno di un imperatore romano. Hanno collaborato i gialli della storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione.